Siamo con Viviana Toniolo del Teatro Vittoria per parlare della decima edizione di Salviamo i Talenti, premio Attilio Corsini, dal 30 maggio al 6 giugno al Teatro Vittoria per l'appunto. Viviana, ben trovata. Grazie anche a voi e soprattutto grazie per dedicare uno spazio a questa rassegna che è importante per i giovani, per il teatro e per il futuro del teatro. Quanti lavori presenterete? Quattro sono, tutti gli anni sono quattro. A me arrivano anche, l'anno scorso me ne sono arrivati la bellezza di 280 spettacoli. Su cui dare, quest'anno un po' meno, 160. E di tutti questi io ne devo scegliere quattro, non è facile, è molto complicato. Anche perché c'è tanta bella roba, tanta gente di talento, veramente tanta, e magari dover scartare uno per un altro è difficile, insomma, spero di aver fatto, io cerco di fare al meglio, però spero di non aver sbagliato, magari scartare qualcuno che voleva più di un altro, ma è molto complicato. Viviana, raccontiamo anche un po' la storia di questa rassegna. Allora, 10 anni fa mi successe che nel camerino del nostro teatro un'attrice molto bella, molto televisiva e molto che si stava truccando, mi era anche molto simpatica, non faccio il nome chiaramente, mettendosi il rossetto, mi è rimasta l'immagine proprio scolpita nel cervello, si stava mettendo il rossetto e ha detto: "Ma ormai non c'è più nulla, i giovani, non c'è nessuno bravo, non c'è più niente nel teatro." Io sono rimasta male, nella mia testa mi sento: "Ma come ti permetti?" Però in effetti io fino a quel momento non mi ero molto occupata delle nuove generazioni, insomma. Quella sera sono andata a casa abbastanza incavolata, dico: "Ma come si permette questo di dire? Anche soltanto per statistica non è possibile che non ci sia più nessuno bravo, no? Non è possibile, improvvisamente non ci sono più talenti, non ci sono più bravi attori, bravi registi tra i giovani." E quella notte alle 5 del mattino avevo fatto tutto il progetto, pensando anche all'immagine, mi era venuta l'immagine del panda, cioè di una razza in estinzione, come possiamo essere noi, che dobbiamo essere salvati. E mi è venuta questa idea di fare una rassegna, di andarmi a vedere gli spettacoli di giovani e poi di fare una rassegna e premiare lo spettacolo, uno spettacolo di quattro che scelgo, ed è votato dal pubblico che lo viene a vedere e da una giuria di esperti, registi, autori, direttori di teatro, persone che possano dare lavoro e anche scoprire nuovi talenti. Quello che mi ha stupito da subito, appunto, io prima non ci avevo fatto tanta attenzione al lavoro dei giovani, quanti ce ne sono bravi, quanto che c'è poco lavoro, ma in teatro anche per noi più adulti, e che hanno passione e che vogliono esprimersi, e affittano teatrini e fanno i loro spettacoli in mezzo a cose anche certe così così, neanche tutte dico la verità, ma ci sono invece delle grandi qualità, e questo mi ha riempito di gioia e lo scopro di anno in anno, insomma. Quali sono i criteri di partecipazione? Beh, c'è tutto sul social, insomma su internet c'è tutto scritto. Bisogna essere under 35 prima di tutto, e poi c'è tutte delle cose un po' burocratiche da seguire, insomma, ecco, però soprattutto che siano under 35. Che idea ti sei fatta su questa edizione rispetto a tutti gli spettacoli che ti hanno proposto, i quattro che hai scelto? Ma mi sembrano tutti uno più bello dell'altro, mi sembrano molto belli, con attori molto bravi. Ad esempio il primo, Carl, una ballata, intitolato così, il 30 maggio domani, è addirittura scritto, la regia anche di una giovane ragazza che è veramente un testo profondo, intelligente, ma gli attori sono bravissimi. Dopo ci sarà Julie da Strindberg. Anche qui una bellissima regia, con degli attori notevolissimi. Poi c'è il 4 giugno un Cyrano de Bergerac. Sono state un po' perplesse se prendono o no, perché se la nostra ne fatti tante, ma qui c'è il protagonista che è straordinario. E ho detto, no, se questo, anche avevo un po' di dubbi, perché noi abbiamo già avuto un'edizione qui qualche anno fa in cartellone, però insomma è talmente di valore questo attore che. Tanto che io quando l'ho visto dico, no, è troppo maturo, ma questo non ha 35 anni, è proprio maturo come attore, no? E sono anche andato a controllare l'età, e sì, è più giovane di 35 anni, è straordinario. E poi il quarto è di Luigi Pirandello, la morsa, cioè, sono insomma, episodi molto bellino, molto bravi anche loro, In particolare. questa settimana come si alterneranno gli spettacoli? Allora, il 30 maggio domani debutta, poi il primo debutta Carl, una ballata, il primo giugno Julie da Strindberg, il 4 giugno Cyrano de Bergerac, il 6 giugno La Morsa, cioè, e ti dirò che il primo anno io addirittura davo una settimana per uno, avevano 2 giorni per provare, poi purtroppo per problemi, solita storia nella vita nostra, teatranti, per problemi economici, abbiamo dovuto stringerlo in questo modo. Abbiamo in una giornata secca, insomma, il loro debutto, e hanno la giornata, oggi infatti stanno provando, seguirò la prova generale, insomma, in 2 giorni. Purtroppo, anche perché speravo che ci fosse anche più attenzione, che crescesse, non abbiamo mai avuto un giornalista che è venuto a fare una critica, no? Cioè, si rimane un po' male per la disattenzione, anche perché grazie a te intanto e grazie anche a altre interviste che ho fatto, a parte Strabioli il primo anno che mi ha portato in Rai 2 volte a parlarne e ha avuto più risonanza, però se non si fa un po' di pubblicità anche. Finisce qui, ce la Sì, facciamo, cioè, sì. a me questo fa molto male, ecco. Non è cresciuto come avrei voluto. Ecco. Allora, ricordiamo la decima edizione di Salviamo i Talenti, premio Attilio Corsini al Teatro Vittoria a Roma dal 30 maggio al 6 giugno. Un ringraziamento a Viviana Toniolo. Ti do un abbraccio, Viviana, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie infinite, aiutate questa rassegna, venite, votate, scegliamo il teatro di domani, perché questi giovani sono il teatro di domani, ricordiamocelo. Ciao, Grazie infinite, a grazie, presto. ciao, ciao, ciao, grazie.